sono andato a visitare una coppia di sposi che tempo fa ha realizzato la nuova nascita e che da poco frequenta una chiesa. Con me venne una sorella che conosco abbastanza bene. Gli sposi animati dallo zelo fraterno caratteristico dei nuovi convertiti, in poco tempo ci fecero sentire a nostro agio. La conversazione era molto familiare ed essi erano estremamente desiderosi di manifestarci il loro affetto. Ad un tratto gli occhi della sorella si posarono su un paio di ciabatte da donna. «Oh, che belle ciabatte!» fece la sorella. La sposa ricevette il complimento con piacere. «Dal momento che conosco la sorella che mi accompagnava, mi resi subito conto che il complimento non era fine a se stesso. Cioè una manifestazione di apprezzamento per l'oggetto in sé, ma perché ella desiderava possederle. Sapendo però che non lo avrebbe mai chiesto in dono perché sarebbe stato per lei umiliante, e sapendo anche che avrebbe raggiunto ugualmente il suo scopo, decisi di fare attenzione alla strategia che avrebbe adottato. Poco dopo la sorella esclamò di nuovo: «Ma che belle ciabatte! Devono essere veramente comode!» «Eh sì», rispose la sposina, «le vuoi provare?» La sorella le prese simulando abilmente un certo imbarazzo. Le provò e cominciò ad esprimere tutta la soddisfazione che le procuravano. Passò ancora un poco di tempo e mentre la conversazione diventava sempre più intima, la sorella esclamò: «Ma come si sta bene con queste ciabatte? Sono veramente stupende. Sei proprio fortunata ad averle». La sposina, che non aveva difficoltà economiche e ardeva dal desiderio di esprimere il suo affetto, replicò: «Se proprio ti piacciono così, tanto te le regalo». «Ma no», rispose la sorella, «non è il caso». Intanto la comunione fraterna si prolungava e i discorsi erano sempre molto affabili. Durante uno dei tanti argomenti che si affrontavano con serenità, spuntò l'ennesima esclamazione della sorella: «Ti devo dire che queste ciabatte sono veramente belle e comode». Al che la sposina, leggermente imbarazzata, rispose: «Guarda che se le vuoi io te le regalo, se le prendi mi fai un piacere». Il viso della sorella cominciò ad illuminarsi. «Ti faccio veramente un piacere?» «Ma sì», rispose la sposina tutta felice. «Se le accetti, mi fai veramente un piacere». «Va bene», disse tutta compiaciuta la sorella che finalmente aveva raggiunto il suo scopo. «Se è così, per farti un piacere, prendo le ciabatte». Questo episodio ha lasciato un segno profondo nella mia vita. Quella sera ho compreso come non mai come il cuore dell'uomo sia terribilmente e insanabilmente maligno e che questa malignità abiti soprattutto nelle persone virtuose. In effetti la sorella che mi ha accompagnato è stimata da tutti, credenti e non credenti, amici e nemici, parenti ed estranei. Ella affronta con abilità le conversazioni, è accorta nelle situazioni della vita, è soprattutto stimata nella Chiesa alla quale appartiene. Molte sorelle della Chiesa si confidano con lei per i suoi buoni consigli. È ineccepibile nelle relazioni con il prossimo. Quando alla presenza dei fratelli riuniti confessò di sentirsi mancante davanti a Dio, perché in definitiva Lui è perfetto, ma di non trovare una ragione per sentirsi mancante nei confronti del marito, nessuno replicò. Chi avesse osato chiedere chiarificazioni o contraddirla, si sarebbe trovato in grosse difficoltà. Nonostante tutto questo perbenismo, la sorella in quella visita ha avuto un comportamento diabolico, si è servita di un inganno diabolicamente architettato. Purtroppo questa sorella è in grado di manipolare il prossimo tanto abilmente che le persone stesse non se ne rendono conto. L'atto diabolico raggiunge il suo culmine quando la sorella porta le persone a pensare quello che lei vuole e queste sono convinte che le loro decisioni siano il risultato di una loro libera scelta. E tutto questo, come del resto mi è stato fatto notare da altre donne, non è attuato con uno scopo diabolico, ma deriva da una tendenza naturale della quale la sorella è forse all'oscuro. Dico forse, perché solo Dio conosce appieno il suo cuore. Sta di fatto comunque che la sorella è abile a manipolare il prossimo e il suo modo di procedere serve a raggiungere il proprio scopo senza conflitti diretti e senza che l'altro comprenda la manovra. Come nel caso citato, la diabolicità del comportamento della sorella stava nel fatto che, nel volere raggiungere i propri fini, ella induca l'altro a pensare di avere in mente solo bene, o la completa felicità di quest'ultimo. La diplomazia è buona, lecita e a volte indispensabile, ma non lo è. Quando si raggira qualcuno per raggiungere i propri obiettivi, parlare di ciò che è diabolico non è facile. Innanzitutto perché non si accetta che un credente possa avere comportamenti diabolici, poi perché per diabolico si intende tutto ciò che è perverso e che è volto soltanto al male. Ma non è così. Al tempo dell'Apostolo Paolo vi era una donna che invitava le persone ad ascoltare l'Evangelo, ma era posseduta da uno spirito diabolico. Non sempre il diavolo allontana le persone dall'ascolto della parola di Dio. Egli stesso è religioso e cita la scrittura. Come nel caso citato, il comportamento della sorella non era volto al male, non aveva scopi malvagi, ma è proprio qui che si cela indisturbata l'insidia diabolica. Noi siamo abituati a giudicare diabolici i comportamenti apertamente malvagi. Caino uccide Abele, Davide, il padre di Salomone, fa uccidere con astuzia uno dei suoi migliori soldati per evitare lo scandalo. Giuda vende il suo maestro per 30 denari. Non ci è dubbio. Caino, Davide, Giuda si sono comportati diabolicamente e questo nessuno lo mette in dubbio. Che dire allora del comportamento diabolico che si cela sotto le spoglie del perbenismo, dell'affetto, dell'amore? Prendiamo l'esempio da una coppia quando usa armi segrete per non fare ciò che desidera l'altro, o neanche ciò che si era concordato di fare, si può, per esempio, fingere di aver dimenticato l'appuntamento, l'impegno e la promessa fatta. A volte si può fingere di avere mal di testa o un altro malessere, più o meno grave. Ho conosciuto una sposa che, tutte le sere immancabilmente per evitare che il marito la cercasse, diceva con il tono più disperato: «Stasera sono proprio sfinita! Stasera desidero solo fare una bella dormita». Il messaggio che lanciava era evidente: scoraggiare ogni avance del marito. A volte la moglie usa l'arma del pianto, o il marito quello della voce grossa per ottenere ciò che vuole. In altre occasioni ci si serve delle bugie, o si adoperano i figli come scusa per non fare ciò che vuole il coniuge, o si convincono i bambini a intervenire sull'altro. La mente umana è capace di inventare tanti sotterfugi pur di prendere il posto del metodo più onesto e più utile per la crescita della coppia, e cioè il dialogo. Se non si dialoga, è inevitabile che si cerchi di ottenere ciò che si vuole con metodi diabolici. Non dobbiamo sottovalutare che il diabolico più diabolico trova il suo apice nell'ammantarsi di valori cristiani. In questi casi l'agire diabolico raggiunge il culmine. Prendiamo come esempio il seguente episodio nella parola di Dio. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia?» Ed essi dissero: «Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendogli, disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: «Signore Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro. Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Matteo 16, 13-23. L'apostolo Pietro è stato preso più volte a ragione quale esempio di zelo e d'amore per Gesù. Pietro amava sinceramente Gesù e il Maestro lo sapeva. Proprio per questo Gesù gli affida il compito di proclamare per primo l'Evangelo ai giudei e agli stranieri. Ma quando Gesù apertamente ha cominciato a rivelare ai suoi discepoli che sarebbe stato ucciso, le viscere dell'affetto di Pietro si contorsero con indicibile dolore dentro di lui, dolore simile a quello di una madre alla quale vengono schiacciati i figli davanti agli occhi. Preso dalla più profonda disperazione, Pietro esclama: «Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai!» La risposta di Gesù è inattesa, impensabile, ma pronta. «Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» La replica del Salvatore ci lascia disarmati. Gesù ha riconosciuto, nelle parole e nel movente di Pietro, un atto diabolico, uno scopo satanico, un atteggiamento che ostacolava l'avanzamento del regno di Dio. Eppure il movente e le parole di Pietro scaturivano dai più nobili sentimenti, dall'amore più profondo. Pietro desiderava che Gesù non soffrisse, che non fosse ucciso, che potesse ancora dispensare parole di vita eterna, che guarisse tante persone bisognose. Nonostante tutto questo, Pietro in quella circostanza era un Satana, un avversario di Dio. Per comportarsi in modo diabolico non occorre macchiarsi di clamorosi e nauseanti peccati. L'apostolo Giovanni denuncia certi giudei religiosi definendoli una sinagoga di Satana. Al giorno d'oggi vi sono persone che appartengono a sette apertamente sataniche senza che questo offenda la morale dei più. La sorella che mi ha accompagnato non ha commesso in fondo nulla di grave. Desiderava una cosa e ha usato tutta la sua arte per ottenere ciò che voleva. E questo non è ancora il vero atto diabolico, perché in fondo un po' di abilità per ottenere ciò che si vuole è lecita. Penso a Paolo e alla sua maestria nello scrivere la lettera a Filemone perché accettasse lo schiavo Onesimo non più come schiavo ma come servo. L'agire diabolico della sorella è consistito nell'architettare un piano per arrivare a convincere la sposina che accettava il dono per farle un favore e non perché volesse le ciabatte. Non solo. Facendo così non ha dovuto umiliarsi, non ha palesato la propria indigenza. Ha salvato la faccia all'orgoglio ed ha voluto far intendere che compiva addirittura una gentilezza. È fortemente diabolico ingannare il prossimo, volendo far intendere una cosa per un'altra. Purtroppo questa attitudine è più comune di quello che si pensa, soprattutto nell'ambito religioso, dove ognuno è tentato di mostrarsi moralmente ineccepibile per non subire la vergogna della colpa e l'umiliazione della confessione. Se tu che leggi sei un credente, corri anche tu il pericolo di avere comportamenti diabolici. È inutile pensare di esserne esenti, perché è proprio questo il peccato contro il quale Gesù si è scagliato con veemenza. Poi Gesù disse: «Lo sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane». Giovanni 9, 39-41. La colpa dei giudei non era tanto quella di aver peccato o di essere dei falsi religiosi, ma stava nel fatto di non riconoscerlo. Il Dio delle Scritture non ci chiede di comprendere e di vedere tutto, non ci chiede quello che è impossibile, ci chiede solamente l'onestà di reagire alla luce, cioè di riconoscere il nostro peccato quando la Scrittura, mediante lo Spirito Santo, ce lo rivela. Il peccato della sorella in questione non è tanto quello di manipolare abilmente le persone quanto di non confessare tale peccato nemmeno a se stessa. Quando un giorno riuscì a farle vedere la sua natura malvagia mi rispose. Che cosa sono? Un mostro? Qui non si tratta di essere dei mostri o meno. Si tratta di essere coscienti di avere una natura tanto malvagia da essere capace di tutto. In quel tutto vi è veramente tutto, cioè la completa capacità di ogni atto. Per farti comprendere questa ultima espressione ti chiedo, pensi di essere in grado di uccidere delle persone? Pensi di poter torturare e violentare dei bambini? Pensi di poter tradire Gesù come fece Giuda? Se la tua risposta è no, allora non hai compreso il messaggio di Gesù e del Vangelo. Il nostro Salvatore non è venuto per dirci che siamo delle brave persone, non ha detto che i figli di Dio sono migliori degli altri, anche se essi devono essere i migliori. Gesù è venuto per dichiarare che tutti, io e te compreso, siamo malvagi, capaci di ogni infamia, e che in noi non abita alcun bene. Se tu non credi di poter commettere certi peccati, non accetti quanto Gesù afferma, non appartieni alla razza di Adamo, ma sostieni di appartenere ad una razza inesistente. Forse non hai riflettuto sufficientemente, ma anche i più grandi uomini di Dio si sono macchiati di atti diabolici. Abbiamo ricordato Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, che commise un adulterio, tramò un omicidio, tradì uno dei suoi più valorosi guerrieri. Abbiamo ricordato l'amore e lo zelo di Pietro, eppure egli aveva il senso delle cose degli uomini, si affidava alla sua logica umana. Ricordiamo anche Giosuè che per una gelosia umana verso Mosè non era contento che due uomini profetizzassero. Senza andare tanto lontano nel tempo è sufficiente che ci guardiamo attorno e osserviamo come uomini e donne che servono Dio fedelmente cadano nei peccati più impensati. Come mai? Tu ti chiedi. Le ragioni sono tante, ma molto probabilmente essi pensavano di essere incapaci di cadere in tali cose. Pensavano di esserne immuni, pensavano, anche se non lo dicevano, di essere diversi dagli altri. È vero che confessavano di essere peccatori, lo dichiaravano dal pulpito. Ma lo Spirito Santo non aveva demolito profondamente il loro perbenismo e il loro moralismo. Una persona accorta e saggia non sosterrà mai di essere perfetta, ma senza l'opera dello Spirito Santo non ammetterà neppure con se stessa di essere capace di compiere azioni per le quali ha un senso profondo di ripulsione. Diabolico. Sì, tu ed io siamo capaci di comportarci in modo diabolico. Non cullarti nelle tue buone azioni, non crogiolarti nei doni che ti sono stati dati da alto, non porre la tua fiducia nelle tue giustizie. Come quella sorella che rifiuta categoricamente di vedersi per quella che è perché si rende conto di essere una donna virtuosa, così stai attento alle tue virtù. Le virtù sono una spada a doppio taglio. Con esse puoi fare tanto bene ma altresì tanto male. Mosè aveva un bastone, mediante il quale fece tanti miracoli per la gloria di Dio, ma è stato quello stesso bastone ad impedirgli di entrare nella terra promessa, quando lo usò per percuotere più volte la roccia. Il compito di Mosè consisteva soltanto nel parlare alla roccia, ma in preda all'ira usò il suo strumento imprudentemente. L'acqua scaturì ugualmente dalla roccia, ma Mosè subì le conseguenze dell'uso improprio del bastone. Così, a meno che tu non sia migliore di Mosè, anche tu, con la tua abilità di parola e di fatti, puoi fare tanto bene al prossimo, ma altresì puoi usare queste capacità per scopi satanici. Finché non diffidi delle tue capacità, finché non hai paura dei tuoi virtuosismi, finché la tua forza non diventa il tuo lato debole, finché non ti credi capace di tutto, finché non ti rendi conto di essere così malvagio da non trovare una persona peggiore di te, sei un uomo o una donna virtualmente in pericolo. Sei un potenziale Satana. Fai tua la preghiera, o Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Salmo 39,4. Aprile 2005. Ellero,